Un bell'ombrello dal manico robusto, bello appuntito, nero, lucido, ben avviluppato nella sua fodera, sarà proprio un bastone, e lo guardava quasi con desiderio, tanto che colse nei suoi occhi un lampo improvviso, quasi ambiguo, mi fece capire subito di chi si trattasse, e naturalmente cominciò a parlare con lei, e naturalmente capì subito che faceva parte di quella categoria di esseri umani che sono affascinati dall'entrare in una sorta di gioco in cui qualcuno comanda e qualcuno obbedisce, ma a livello estremo, comandare e obbedire in un rapporto così viscerale, così profondo, così anche, se per molti inspiegabilmente, erotico. Si può immaginare che sin dal principio un rapporto di appartenenza debba avere un contratto. È una cosa anche questa molto personale. Generalmente si fa. Di fatto è un protocollo comportamentale che viene riconosciuto da tutte e due le parti. Ci sono dei contratti standard e chiunque se li può trovare su internet. In lingua inglese ce ne sono moltissimi. In realtà il protocollo si crea anche col tempo e si modifica con la reciproca conoscenza. Detta delle regole entro le quali si svolge la vita, e queste regole sono comunque principalmente indirizzate dal dominante, ma subiscono anche l'influenza della vita del sottomesso, del sub, proprio perché è ovvio che poi ognuno ha una vita personale. Stiamo parlando chiaramente di rapporti che non sono nell'ambito del gioco di una sera, del gioco di due ore. Facciamo l'esempio sempre dello stare al ristorante o dello stare a tavola. Non è che se si sta a tavola io mi sentivo dire prendi il bicchiere, riempilo, muoviti, assolutamente no. Era mia attenzione far sì che il suo bicchiere non fosse mai vuoto, ma perché il desiderio di un sottomesso e di una sottomessa è quella di rendere il maggior piacere possibile al padrone, laddove il piacere non è esclusivamente legato al piacere sessuale. Sottomissione è il titolo dell'ultimo romanzo di Houellebecq, un romanzo che parla dell'Occidente, che prima o poi sarà sottomesso comunque a quella che è l'orda islamica che tutto sembra che voglia conquistare. L'Occidente non ha più valore da difendere, quindi prima o poi si sottometterà, ma per stare meglio, per vivere meglio, per averci tre mogli, per non avere fastidi, per avere una vita agiata, per tutto un insieme di vantaggi che si ha quando ci si sottopone a qualcosa. C'è un principio superiore che comunque ci dice quello che dobbiamo fare, quindi dobbiamo pensare meno. Uno delle maniere che sembrano per noi più barbare, più lontane alla nostra civilizzazione, della sottomissione a una certa visione della vita e della concezione dell'autonomia, è proprio riguardante la figura della donna. La donna sottomessa, la donna velata, la donna intabarrata, la donna lapidata, la donna sottoposta comunque a tutte le umiliazioni, perché in fondo è poco più di un oggetto nelle mani dell'uomo che ne è padrone. Padrone totale della sua vita, dei suoi pensieri, della sua autonomia, della sua sessualità. Ci sembra qualcosa di abnorme, inaccettabile, però per paradosso l'Occidente, in cui ci sono donne liberate, improvvisamente esplode a livello plateale, a livello comune, generalizzato, la voglia di sottomissione. Attraverso alcuni romanzi, una serie di romanzi, le 50 sfumature di grigio, che parlano proprio di un rapporto di sottomissione, quasi un contratto come quello di cui parla questa signora, e un film derivato dal romanzo che sembra avere grande successo. Sembra ci sia nella donna liberata un desiderio nascosto, atavico, recondito, per qualcuno passa come patologico, ma probabilmente così non è, di essere sottomessa. L'entità della punizione dipende dalle caratteristiche del dominante. Nel momento in cui queste aspettative sono disilluse, ci può essere, ripeto, comprensione, oppure ci può essere una punizione, e si può manifestare in tantissimi modi, che possono essere lo spanking, che sono in italiano le sculacciate, e lì anche si può dare un appuntamento oppure si può ricevere una punizione immediata. Cioè, ok, sappi che per questa cosa che adesso hai fatto in questo modo, domani fatti trovare già in questo modo quando rientro alle 3, e quindi su questo non si non si dibatte. Accadde che ero fuori per lavoro, ero a Milano per lavoro ed ero da sola. Contemporaneamente c'era la Fiera dei Cavalli. Un collega acquistò una frusta e io, già comunque affascinata dall'oggetto in sé, il suono della frusta peraltro per me è qualcosa di quasi ipnotico, e in un momento in cui in un locale questa persona si alzò, toccai questa frusta e volevo proprio sentirla schioccare, non sapendolo fare, perché non è la mia predisposizione usarla la frusta in caso sentirla, e mi feci male, cioè mi ferì l'occhio, finì all'ospedale oftalmico. In un mondo in cui io per primo facciamo noi uomini che ci riteniamo abbastanza civilizzati, perlomeno nelle intenzioni, anche poi se la nostra natura a volte rimane selvaggia, di combattere, darsi da fare, impedire che la donna sia considerata come un essere che debba subire, ma dare tutta la disponibilità, dare strumenti di autonomia, di riconoscimento dell'autonomia femminile, sentire una donna che parla della punizione come di un grande regalo, come di un privilegio, di una donna che assapora la frusta come se fosse un oggetto che potrebbe darle solo piacere, di una donna che accetta poi di subire scudisciate come le subirebbe una qualsiasi adultera sulla piazza di un paese dove vige la sharia, che viene massacrata di frustate soltanto perché magari ha un vestito non consono a quella che è la regola. Beh, questo ci fa riflettere. Arrivò, mi chiese di mettermi con faccia al muro, prese una bacchetta di bambù e mi disse, allora saranno 60, dice 20 perché non si fa ciò che non si sa fare, 20 perché non si toccano le cose altrui senza permesso, e 20 perché non si toccano le cose altrui che peraltro non si sa usare, perché appunto non si sa fare quello che si va a fare. E io, pensando forse di essere consolata perché stavo male, mi ero fatto male all'occhio, no? Quindi pensavo così, dissi, mi pare semplicemente, no, aspettati 20 perché hai parlato, e quindi diventarono 80. Il piacere che diventa fisico e diventa anche sessuale in quest'ambito derivava dalla possibilità di dimostrare tutta la mia adorazione, e poi c'era anche tutto il mio amore, ma può pure non esserci, nel mio caso c'era, in ogni modo possibile a quest'uomo che io adoravo. Da questo deriva il piacere fisico, la sensazione fortissima di appagamento personale che si ha quando ci si dona in questo modo. Può essere che esista un piacere fisico nel donarsi, ma può anche essere chi chiede, riceve o accetta tali regali, probabilmente è in un'area della sensibilità contemporanea piuttosto diversa rispetto a quella che è la norma. Non dobbiamo criminalizzare appunto ogni scelta se condivisa, se le persone amano stare assieme e stabilire questo tipo di rapporto, se a loro sta bene deve star bene a tutti naturalmente. Certo, risulta un po' fuori tempo, un po' fuori luogo, un po' difficile da capire e comprendere in un momento in cui noi stiamo facendo sforzi enormi proprio perché dobbiamo condizionare noi stessi a reprimere l'animale profondo, arcaico, lontano e remoto che sta in noi, che vorrebbe sottomissione, vorrebbe il dono estremo, vorrebbe il possesso totale su ogni donna. Trovare donne che ti dicono in maniera così chiara, così plateale, che per loro in fondo è tornare indietro di secoli, un grande, profondo e ineffabile piacere. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là, on n'y pour rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis la présence qu'a sonné l'heure.

Oltre ai défilé di biancheria femminile decisamente porcaccione, il catalogo includeva un campionario di oggettini che rompevano il muro di omertà sui suoi possibili usi di succedaneo erotico. In un paio di paginette venivano offerti nell'ordine un pacco famiglia di preservativi anonimi e senza marca, venduti a stock in un numero impressionante per giustificare il basso prezzo. Un vibratore, di vecchia generazione già allora, spacciato con la classica iconografia di signora che se lo strofina beata sotto il mento, così da accreditare di nuovo la vecchia scusa che fosse venduto per massaggiare il viso. E delle manette guarnite di peluche rosa, nero, leopardato, denominate come manette dell'amore, che facevano pandan con il ponte dell'amore, un tristissimo oggetto che sprizzava micragna anziché erotismo. In pratica una semplice traversina di gomma piuma incerata, di quelle che in certi cataloghi avranno venduto come presidio sanitario per adulti incontinenti. Nell'illustrazione si spiegava che serviva per trasformare in letto matrimoniale due lettini singoli appaiati. Fu il canto del cigno del vecchio, caro catalogo postal market, umile e laborioso catalizzatore dei desideri di una famiglia, dal set di pentole della madre, dal doccino per lavarsi l'auto alla fontanella pubblica del padre, un equilibrio tra sobrietà e immodestia che tracollò con l'entrata clamorosa di sulfurei articoli da porno shop nella già ricca fonte di ispirazione di erotismi subliminali ed in fondo tollerati. Make no mistake, I don't do anything for free. I keep my enemies closer than my mirror ever gets to me. And if you think that there is shelter in this attitude, where do you feel the warmth of my gratitude? Il treno va. E siamo arrivati alla parte del viaggio dedicata all'audiolettera, alle tante lettere che sto ricevendo, soprattutto da donne. E mi sono accorto di essere diventato un osservatore attento delle donne, non perché ne abbia frequentate tante o abbia tante occasioni di frequentarne, perché le donne mi scrivono, le donne mi raccontano, le donne mi si rivelano. E ho cominciato a classificare le donne a seconda di un database, ma solo per comodità, non perché si debbano sentire comunque limitate, che le suddivide a seconda delle esigenze. Devo dire che la parte più popolata di questo database è la parte delle donne che richiedono agli uomini una chiamata alla responsabilità. Sono donne sole perché naturalmente il loro livello di attesa è superiore a quello che un uomo oggi libero, single, realizzato, sentimentalmente disponibile e sessualmente attivo è in grado di poter concedere, togliendo qualcosa alla sua fantastica, inimmaginabile e invidiabile sete di libertà. Caro Gianluca, quando è stata l'ultima volta che hai invitato una donna ad uscire? Volevo farti sentire una voce dalla cosiddetta giungla dei single anno 2015, giungla in cui militano tre donne per un solo uomo, a quanto dicono le statistiche. Sono una donna di 32 anni, che meraviglia, penserai tu, ed invece pare sia l'età più critica per trovarsi nella single zone. È raro che a quest'età una donna non abbia iniziato a pensare seriamente al suo futuro, prima di tutto a quello relazionale. Un'età di mezzo tra la spensieratezza dei 20 anni e la tranquillità dei 40, gli anni ruggenti, gli anni in cui la volontà è alla sua massima potenza. Inutile dire, gli anni che spingono la maggior parte degli uomini ad allontanarsi, perché si sentono chiamati in automatico a dover rispondere di qualcosa, che è solitamente una qualche responsabilità di retaggio biologico che non vogliono assumersi neanche via WhatsApp. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. E qui i nodi vengono al pettine. Ne ho lette tante di lettere di donne single di questa categoria. Innanzitutto, essere single a 32 anni è molto meglio che esserlo a 42, o è sulla 52, e si consulti con le sue colleghe più attempate, più avanti nel tempo, più quella inesauribile richiamo del cosiddetto orologio biologico si fa snervante, incessante, doloroso. Sì, ahimè, l'ho detto, l'ho scritto, l'ho immaginato, qualche volta l'ho letto anche il mio alter ego che dà corpo ai miei pensieri, alle mie memorie. In realtà la donna non sarà mai uguale all'uomo fino a che non sarà completamente sregolata. Nell'assenza di totale sregolatezza sta il limite della felicità di una donna nel determinarsi. La donna perché è regolata? Perché ha le regole, perché ha comunque una sorta di scadenza mensile che gli ricorda che lei è sottoposta a un orologio biologico. E quindi più andrà avanti nel tempo, più manterrà la sua condizione di single, e se darà ascolto al suo orologio biologico sarà sempre irrimediabilmente infelice. Perché? Perché cercherà un uomo che si prenda la responsabilità dell'appagamento della propria missione biologica, che è quella di figliare, di mettere al mondo della prole. E non sempre gli uomini sono disponibili a questo, non perché siano, è vero, lo sono senz'altro, degli inguaribili fanciulloni, degli immaturi, delle persone che in realtà ancora non hanno capito qual è il loro ruolo, no, perché hanno capito, come lo hanno capito le donne, quanto in fondo sia preferibile non avere pensieri piuttosto che aggiungersene altri, quanto sia più semplice, più leggiato, più bello svolazzare di fiore in fiore piuttosto che fermarsi e mettere le radici sullo stesso fiore. E i fiori, si sa, passata la stagione, un po' s'appassiscono. E questo lo si capisce già dal giorno che scelgono per invitarti a cena, quasi sempre. Non si va oltre il venerdì. Ma come, dirai? Non è meglio scegliere la sera più libera, vicino al riposo del weekend? No. Questi uomini sono affetti da quella che io chiamo la sindrome della domenica. La domenica non ha strategie di fuga e non lascia scampo. O ci sei per davvero, oppure no. Mentre il mercoledì sera, il giovedì, puoi svincolarti quando vuoi, perché il giorno dopo si lavora. E quindi sì, passiamo del tempo assieme, ma col tranquillizzante ticchettio dell'orologio a dirci «Bene, ma basta, tanto ci capiamo, no?» Tu sei una donna che lavora, io anche, lo sai come vanno queste cose. E come vanno? Che posso accumulare tutti gli appuntamenti che voglio in settimana, ma la domenica la passo da sola o con le amiche, anch'esse sempre libere, di domenica, come me. Domeniche silenziose, tristi, tranquille. Di domenica non c'è neanche il mio programma preferito a salvarmi, scriveva Murakami in Tokyo Blues. Ma dico io, quali benefici possono avere queste domeniche solitarie? Io ancora non l'ho capito. Quello che ho capito è che quando un uomo mi inviterà ad uscire di sabato sera, avrà già vinto su tutti gli altri, perché magari dopo la cena ci addormenteremo insieme e al risveglio sarà domenica e avremo tutto il tempo per conoscerci ancora. Magari non andremo d'accordo lo stesso, ma almeno la nostra sarà stata una vera possibilità. Daniela. Ecco, questo è uno dei grandi problemi che mi vengono sottoposti dalle popolatrici di questa sezione, di questo mio database, sui desideri o sulle domande che vengono fatte dalle donne. La scansione settimanale degli appuntamenti con gli uomini che loro ambiscono, loro desiderano, loro vorrebbero avere come uomini per la vita o semplicemente come sollazzi momentanei. L'uomo single normalmente ha un calendario molto fitto di uscite settimanali. L'uomo che ha una famiglia o ha una situazione stabile fissa, ma nemmeno si pone il problema di uscire durante la settimana, perché sta meglio a casa, perché lavora, perché pensa, perché in fondo è molto più comodo starsene a casa che uscirsene disperati durante la settimana, il martedì, il mercoledì, il giovedì, andare in dei locali dove trovi gente acchittatissima, che sono tutti mossi poi dalla stessa molla, che è il desiderio di accoppiamento. Nessuno uscirebbe tutte le sere per andarsi a infilare in dei pub, in dei ristoranti, in dei luoghi di ritrovo, se non avesse, ahimè, dietro il richiamo incessante dell'accoppiamento. Perché dovrebbe uscire? Per il piacere di vedere gente. Ma che ti importa vedere gente quando stai tanto bene a casa tua, quando c'hai compagnia, o comunque anche se non hai compagnia, quando stai bene? E chi esce normalmente non sta bene, non sta bene perché è inquieto perché deve trovare appunto un compagno. È chiaro che l'uomo single, che è un uomo che ormai ha raggiunto una sua stabilità, una sua equazione di egoistica felicità, durante la settimana si presta bene comunque a dare spazio, ad assecondare questo reciproco desiderio di conoscersi, di investigarsi, di piacevolmente incamminarsi nei rapporti che possono dare anche reciproca soddisfazione. Man mano ci si avvicina al fine settimana, al fatidico sabato e alla fatidica domenica, ogni uscita, ogni intimità assomiglia troppo a mettere le basi, ahimè, poi solidissime di un'unione che va a sfociare in un'unione definitiva. Qual è la sera destinata comunque all'appagamento del debito coniugale da sempre? È la sera del sabato. E perché un uomo deve uscire con un'amica, con una pretendente, con una fidanzata, con un amante il sabato, quando il sabato è il terribile giorno che nella sua memoria biologica hanno sempre nonni, genitori, padri, bisnonni, dedicato all'impegno coniugale? E la domenica? La domenica si sta tanto bene, ci si alza tardi, si va in bicicletta, si va a vedere la partita, ci si stravacca, si guarda la televisione, non ci si lava, si fa la doccia alle 2 di pomeriggio. Perché non dovrebbe svegliarsi accanto a un'altra persona? Perché dovrebbe coccolarsi con un'altra persona quando c'è il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì per fare questo? Ecco, questa è la risposta, ahimè, se volete, dolorosamente realistica, ma che questa signora che mi ha telefonato non può fare a meno di darsi. Trains, little toy tracks, little boy toys come from the sack, carried by men dressed in white and red. Little boy, don't you think it's time you were in bed? Close your eyes, listen to the sky. Little toy tracks, little boy toys coming from a sack, carried by a man dressed in white and red. Little boy, don't you think it's time you were in bed? Little boy, don't you think it's time you were?